Coffee Break Italian, Season 2, Episode 39. Buongiorno a tutti e benvenuti a Coffee Break Italian. Io sono Mark. Ciao a tutti e io sono Francesca. Come stai, Francesca? Benissimo, grazie Mark. E tu? Sì, benissimo oggi, con molta energia. Sì, sì, è l'atmosfera di Natale che ci ispira. Comunque, i nostri ascoltatori ascolteranno questo episodio dopo Natale. Ah sì, è vero, ovviamente. Allora, buon anno. Buon anno a tutti! Sì, tanti auguri per un anno bellissimo! We hope that this year brings you many opportunities to practice your Italian, not least with Coffee Break Italian, but more of that a little later. Francesca, this is our penultimate episode. Sì, il penultimo episodio, l'episodio 39. And as usual, we have an episode of our soap opera, La Mia Estate, although we are listening to it in the middle of inverno, not estate. Sì, è un po'... crea un po' di confusione, ma sì. È bello avere tutte e due le stagioni allo stesso tempo. Esatto, it's good to have the two seasons at the same time, not least because sometimes, certainly here in the UK, we could be doing with a bit of summer warmth at the moment. Oh, sì, tell me about it, Mark. Okay, let's get started with our episode. Sei pronta? Prontissima. Allora, cominciamo. Sì. Okay, Francesca, where were we in our story of La Mia Estate? Well, Mark, if you remember, episode 8 or 38 did not end very well. Hai ragione. Ti ricordi? Sì, sì. Riccardo ha rovinato la notte di San Lorenzo. Sì. Perché ha visto Mia e Giorgio che guardavano insieme le stelle cadenti. I remember that the narrator, la narratrice, sì, described Riccardo as letteralmente impazzito. Sì, un bel aggettivo, impazzito. Infatti Riccardo ha avuto una discussione molto accesa con il povero Giorgio, come sempre. A very heated up conversation. Sì. A lit up conversation. Sì. Yeah. Mentre Anna e Mia sono rimaste senza parole. Sì, proprio così, poverine anche loro. Allora, vediamo come continua questa tragedia, allora. Sì, per adesso è una tragedia, ma speriamo in un colpo di scena. Colpo di scena? Cos'è? È quando succede qualcosa che nessuno si aspettava, che cambia totalmente la situazione. Oh, ok, so a dramatic turn of events, or a plot twist or something, sì, like that. Sì. Coup de théâtre. Oh, wow. Let's hope for a coup de théâtre then in this episode. Let's have a listen. Nei giorni immediatamente successivi la notte di San Lorenzo, l'atmosfera è davvero strana. La magia di quella notte è scomparsa e si respira un po' di tensione tra tutti. Maria è arrabbiata con Riccardo perché l'ha lasciata sola a guardare le stelle e anche perché si è comportato in modo sciocco. Riccardo capisce di aver sbagliato, ma non ha il coraggio di ammetterlo. Il povero Giorgio, invece, è terrorizzato e ha paura di avvicinarsi a Mia perché Riccardo potrebbe spuntare all'improvviso. Mia è un po' triste perché la sua estate italiana non sta andando come aveva sperato e Anna vorrebbe semplicemente che sua mamma fosse felice. Buono questo panino. Sì, ma non riesco a mangiare. Ho lo stomaco chiuso. Sei arrabbiata, vero? Sì, con mio padre. Ha rovinato tutto. Capisco. Lui e mia mamma sono una bella coppia. Potrebbero essere così felici insieme. Non so proprio cosa fare. Ehi, ciao Giorgio. Ciao ragazze. Come va? Così. Vorremmo fare qualcosa per i nostri genitori. Ho un'idea, ma aspettate. Oddio, c'è Riccardo. Giorgio, non andare via. Ma... Ragazzi, sono qui per scusarmi. Mi dispiace tantissimo per ieri sera. Ho perso le staffe. Papà! Tesoro, tu rimarrai sempre la mia bambina, ma devo capire che ora sei una donna matura e responsabile. Voglio fidarmi di te e soprattutto voglio che tu sia felice. E tu, Giorgio, vieni qui. Diamoci una bella stretta di mano. Grazie, signor Riccardo. Allora, pace. Pace. Ma chissà se Maria vorrà mai fare pace con me. Sì, sono sicura. Ma dobbiamo trovare un modo. Giorgio, cosa stavi per dirci prima? Papà, ascolta il piano di Giorgio. Ok, allora. Oggi è Ferragosto. Ferra-what? Ferragosto, mia. Non lo sai? Il 15 agosto ogni anno in Italia festeggiamo Ferragosto. In teoria è una ricorrenza religiosa, ma in realtà è più che altro una scusa per festeggiare l'estate. Non si lavora a Ferragosto. Tutti vanno al mare o in montagna e le città sono deserte. Esatto. E noi al campeggio abbiamo organizzato una mega grigliata, con musica, giochi, anguri a volontà, fuochi d'artificio e i gavettoni. Oh, i gavettoni, water bombs. Sono troppo vecchio per i gavettoni. Non è mai troppo tardi, signor Riccardo. Sono sicuro che l'atmosfera di Ferragosto la aiuterà a riconquistare il cuore della signora Maria. Giorgio, tu ne sai una più del diavolo. Dopo aver parlato con i ragazzi e condiviso le sue preoccupazioni, Riccardo si sente più sollevato e sicuro di sé. Sa di poter contare sul loro aiuto e questo lo tranquillizza molto. Nel frattempo nota in lontananza che Maria è molto occupata a coordinare tutti i preparativi per la grigliata di Ferragosto, quindi decide di non disturbarla. Più tardi però Riccardo sente la stessa canzone del suo primo ballo con Maria e decide di cogliere l'occasione. Ragazze, guardate, non mi ero sbagliato. Oddio, mia mamma ha appena preso la mano di Riccardo. Grande, papà, e stanno andando a ballare. Che scenetta romantica. Mia madre con la testa appoggiata sul petto di Riccardo. Dai, curiosone, basta guardare. Guardate piuttosto verso il cielo. Iniziano i fuochi d'artificio. Wow. Oh, mamma mia, si stanno baciando. I don't really know if I want to see this. La magia dei fuochi d'artificio ha avuto l'effetto desiderato e Riccardo e Maria finalmente si lasciano andare in un bacio appassionato, mentre tutti hanno lo sguardo rivolto al cielo. Giorgio trova il coraggio di mettere il suo braccio intorno al collo di Mia, che, emozionata, gli stringe forte forte la mano. Sarà forse l'inizio di qualcosa di nuovo? Francesca, that colpo di scena definitely happened. I'm delighted to see sì. Things are picking up. Che bello! A long episode, however, there was lots in there and some really interesting grammatical points. I picked up a couple in there. I'm looking forward to talking about them. Sì, anch'io. But there is a lot going on, so andiamo con ordine, Mark. Okay, va bene. Let's listen to the first section and we'll talk about that afterwards. Nei giorni immediatamente successivi la notte di San Lorenzo, l'atmosfera è davvero strana. La magia di quella notte è scomparsa e si respira un po' di tensione tra tutti. Maria è arrabbiata con Riccardo perché l'ha lasciata sola a guardare le stelle e anche perché si è comportato in modo sciocco. Riccardo capisce di aver sbagliato, ma non ha il coraggio di ammetterlo. Il povero Giorgio, invece, è terrorizzato e ha paura di avvicinarsi a Mia perché Riccardo potrebbe spuntare all'improvviso. Mia è un po' triste perché la sua estate italiana non sta andando come aveva sperato e Anna vorrebbe semplicemente che sua mamma fosse felice. Ok, there's quite a lot in this first paragraph. Sì, la narratrice inizia dicendo che si respira un po' di tensione, So one can breathe or sense a bit of tension in the air. Absolutely. Perché, Mark, secondo te si respira questa tensione? Allora, secondo me, Maria ovviamente è arrabbiata perché Riccardo si è comportato in modo... come si sciocco. Direbbe? Sciocco, in modo sciocco. Sì, it's quite a tricky word to pronounce, sciocco. Sciocco. I think, to be perfectly honest, I think it's more difficult to pronounce when you read it. Because when you read it, you think, oh, what's with these C's and these S's and the double C and so on. But when you think about it, like, almost like the word shock in English, although it does mean something different, then you can think of shock, sciocco. Sì, like è vero, non avevo mai pensato al collegamento. The important thing is not to think that it means shock, it no. means something different. What does it mean? Yeah, it means like stupid or foolish. Which, if you're expecting someone to behave sensibly, then that is a bit of a shock, I guess. Yeah, yeah, it makes sense. It's a good way to remember this new adjective. Sciocco. Sciocco, okay. Sì. Foolish or stupid. Sì, ma c'è anche una cosa interessante di Dimmi. Questa parola. È un piccolo caffè culturale. In Toscana, sciocco significa senza sale. È vero? Without salt, sì. In Toscana si mangia il pane sciocco. It doesn't mean the stupid bread. It means bread without salt. Sì, okay, sì. Ok, so il pane senza sale. Sì, ma solo in Toscana. Ok. Okay. Andiamo avanti, Andiamo dai. Avanti, sì. Riccardo non ha veramente il coraggio di ammettere che ha sbagliato. No, he doesn't have the guts, the courage, to admit he made a mistake. E Giorgio è terrorizzato. Sì, sì. Povero Giorgio. Sì, poverino. E Mia invece? Mia is a bit disappointed. I think she is kind of realizing, in fact, she uses a nice pluperfect tense. Sì. She's realizing that things haven't worked out as she had imagined. Sì, lei dice, la narratrice meglio dice che la sua estate non sta andando come aveva sperato. So her summer isn't going as she had hoped. Esatto, sì. Okay. E invece Anna? Anna, well, there's even more than a pluperfect here. There's a lovely subjunctive, an sì. imperfect subjunctive. Mamma mia. Anna vorrebbe, so sì. Anna would like, che sua mamma, that her mum, fosse felice. Bravissimo, Mark. Fosse is the imperfect subjunctive form of essere. Sì. Now, again, we would just suggest that you recognize it now mm-hmm. and you can translate it as war. Or indeed, if you're wanting to be correct in English, where. Anna would like that her mother were happy. Sì. It sounds a little strange. Of course, we tend to use an infinitive in English. Anna would like her mom to be happy. But in Italian, you've got to use this strange fosse form. Sì, sì, ma non preoccupatevi. Indeed. Don't worry about this. She just wants her mom to be happy. Beh, devo dire, Mark, che abbiamo dipinto un quadro abbastanza triste. Sì, un quadro un po' triste per cominciare, ma vediamo se le cose migliorano un po'. Ok, dai. Buono questo panino. Sì, ma non riesco a mangiare. Ho lo stomaco chiuso. Sei arrabbiata, vero? Sì, con mio padre. Ha rovinato tutto. Capisco. Lui e mia mamma sono una bella coppia. Potrebbero essere così felici insieme. Non so proprio cosa fare. Ehi, ciao Giorgio. Ciao ragazze, come va? Così così. Vorremmo fare qualcosa per i nostri genitori. Ho un'idea, ma... Aspettate. Oddio, c'è Riccardo. Let's just stop there before Riccardo arrives. Sì, povera mia, non riesce nemmeno a mangiare il panino. Ha lo stomaco chiuso perché è arrabbiata con suo padre. Sì, ovviamente. Lei dice che suo padre ha rovinato tutto. He has ruined everything. Ah, è un peccato. E come dice Anna, Riccardo e Maria sono una bella coppia e potrebbero essere felici insieme. That's a nice conditional there. Potrebbero. They could. Sì, ma forse Giorgio ha un'idea. It looks like he's coming up with one of his ideas, but then, at this point, he of course sees Riccardo approaching. Sì, it's really funny the way he said, oddio, c'è Riccardo! Oh my God, there's Riccardo! Allora, vediamo cosa succede. Sì, vediamo subito. Giorgio, non andare via. Ma... Ragazzi, sono qui per scusarmi. Mi dispiace tantissimo per ieri sera. Ho perso le staffe. Papà! Tesoro, tu rimarrai sempre la mia bambina, ma devo capire che ora sei una donna matura e responsabile. Voglio fidarmi di te e soprattutto voglio che tu sia felice. E tu, Giorgio, vieni qui. Diamoci una bella stretta di mano. Grazie, signor Riccardo. Allora, pace. Pace. Ma chissà se Maria vorrà mai fare pace con me. Sì, sono sicura. Ma dobbiamo trovare un modo. Giorgio, cosa stavi per dirci prima? Papà, ascolta il piano di Giorgio. Ok, allora. Oggi è Ferragosto. Ferra-what? Ferragosto, mia! Non lo sai? Il 15 agosto ogni anno in Italia festeggiamo Ferragosto. In teoria è una ricorrenza religiosa, ma in realtà è più che altro una scusa per festeggiare l'estate. Non si lavora a Ferragosto. Tutti vanno al mare o in montagna e le città sono deserte. Esatto. E noi al campeggio abbiamo organizzato una mega grigliata, con musica, giochi, anguri a volontà, fuochi d'artificio e i gavettoni. Oh, i gavettoni, water bombs, sono troppo vecchio per i gavettoni. Non è mai troppo tardi, signor Riccardo. Sono sicuro che l'atmosfera di Ferragosto la aiuterà a riconquistare il cuore della signora Maria. Giorgio, tu ne sai una più del diavolo. Oh, that was quite a long section, Mark. Indeed. Okay. At least Riccardo's calmed down a bit. Sì, finalmente Riccardo si è un po' calmato. And he's even apologizing. Sì, incredibile, guarda. And he's also using an interesting idiomatic expression, which I think is worth explaining. Yeah, I think you're talking about ho perso le staffe. Sì, esatto. Let's talk a little about what this means. Ok, allora, le staffe sono in inglese stirrup? Stirrup, yeah. Mm-hmm. Yeah, sì, dove mettiamo i piedi quando andiamo a cavallo, sì, praticamente. Esatto. Allora, se perdiamo le staffe, so if we literally lose the stirrup, è difficile controllare il cavallo e la situazione diventa molto, molto stressante. Esatto. Quindi questo significa perdere le staffe quando la situazione diventa un po' difficile. Well, staffa is a new word for me. I like that. Yeah, we don't use it very often, but it's used in a lot of idiomatic expressions in Italian, and I have a favorite one, I think. Allora, dimmi. Allora, il bicchiere della staffa. Can you guess what it means? Well, il bicchiere della staffa. Literally the glass of the stirrup. Yes, well, literally this is what it means, the glass of the stirrup, but in reality is the last glass you drink before going to bed. Ah, so it's like a nightcap. Sì, nightcap. Okay. And why is it called il bicchiere della staffa? Well, it's called like this because in the past, men would have the last drink while they already had a foot in the staffa, so they were ready to go home. I love it. Okay. Forse Riccardo ha bisogno di un bicchiere della staffa. Sì, o forse due. Forse. Vabbè, dai, andiamo avanti. Che cosa succede dopo? Allora, Riccardo riconosce che Mia è una donna matura e responsabile, finalmente. Finalmente. And he also says that he wants to trust her. Yeah, to trust in Italian is a little more complicated because you have to use a reflexive verb, fidarsi, sì, sì, di qualcuno. Esatto. So he says, voglio fidarmi di te. Bravissimo. E invece cosa dice Giorgio? I like this as well. He says, diamoci una bella stretta di mano. Esatto. Let's give each other a good strong handshake. Sì, sì, sì. So things are looking up, I would say, but Maria is still angry. Mm-hmm. Ma Giorgio ha un piano. Sì, well, it's Ferragosto, the peak of the summer in Italy, and a national holiday as well. And there is a big party planned at the campsite. Una cosa molto tipica italiana, con una mega grigliata. una grigliata is like a barbecue, sì, a big grill, so it's a huge barbecue. E giochi. Games. Anguri a volontà. Ah, an interesting word. That's watermelons, isn't it? Sì, sì. And we learned a volontà last time. Esatto. Galore. Sì, sì. Fuochi d'artificio anche. Fireworks. E i gavettoni. I did not know this word, but as Ricardo said, right? Ricardo obviously knows it, it's water bombs. Sí, and this is a national tradition for Ferragosto, I would say. Excellent. So basically, Giorgio thinks that the atmosphere of Ferragosto will help Ricardo regain the heart of Maria. Yeah? Oh, che bello, sì. L'atmosfera di Ferragosto la aiuterà a riconquistare il cuore della signora Maria. And note the formal la will help you rather than ti aiuterà, because Giorgio is still being very polite with Ricardo. Sì. They've just made friends, so even at that stage he's still wanting to be very respectful to keep towards. Some distance. Absolutely. Sì. And I love Ricardo's final comment. Did you get it, Mark? He says, ne sai una più del diavolo. Bravissimo. So literally, you know one thing more than the devil. Sì. It means you know a thing or two. You have a few tricks up your sleeve. You get quite a few tricks up your sleeve, something like that. Sì, sì, questa è l'idea generale. Okay. A lot of idiomatic expressions for today. Exactly, yeah. And that's the best bit about learning a language. My favorite thing. I anche love idiomatic. Per me. Idiomatic expressions. Va bene, andiamo avanti e vediamo se il piano di Giorgio funziona. We will do just that. We'll see if Giorgio's plan works out, but we'll do that after our break. Interrompiamo questa trasmissione per una comunicazione importante. If you'd like to make faster progress with your Italian, don't forget that you can use the premium version of this course, which features video versions of the lessons, comprehensive lesson notes, and bonus listening materials. Allora, cosa aspetti? What are you waiting for? If you'd like to take your Italian to the next level, go to coffeebreakitalianplus.com. Okay, we are listening to our ninth episode of our soap opera, the penultimate episode. And in this episode, well, things seem to be sorting themselves out. Let's see if Giorgio's plan does indeed help. Let's listen to our next section now. Dopo aver parlato con i ragazzi e condiviso le sue preoccupazioni, Riccardo si sente più sollevato e sicuro di sé. Sa di poter contare sul loro aiuto e questo lo tranquillizza molto. Nel frattempo nota in lontananza che Maria è molto occupata a coordinare tutti i preparativi per la grigliata di Ferragosto, quindi decide di non disturbarla. Più tardi però Riccardo sente la stessa canzone del suo primo ballo con Maria e decide di cogliere l'occasione. Okay, I think Riccardo is feeling better. Si sente più sollevato e sicuro di sé. Sì, more relieved and self-confident, we can say. Exactly. E Maria invece? Invece Maria è molto occupata con i preparativi per la grigliata. She's very busy with the preparations for the barbecue. Sì, è vero. Come sempre, Maria è una grande lavoratrice. Esatto. E Riccardo, per una volta, secondo me, fa la cosa giusta. Sì. Decide di non disturbarla. Exactly. He decides not to disturb her, but only for a limited amount of time. Sì, infatti, quando sente la canzone del suo primo ballo con Maria, non resiste. So when he hears the song when he and Maria had the first dance together, he can't resist, he can't control himself. E decide di cogliere l'occasione. He decides to grab the opportunity. Well, let's see if this was a wise decision. Ragazze, guardate, non mi ero sbagliato. Oddio, mia mamma ha appena preso la mano di Riccardo. Grande, papà. E stanno andando a ballare. Che scenetta romantica. Mia madre con la testa appoggiata sul petto di Riccardo. Dai, curiosone, basta guardare. Guardate piuttosto verso il cielo. Iniziano i fuochi d'artificio. Wow! Oh, mamma mia, si stanno baciando. I don't really know if I want to see this. Oh, poor Mia, I think she's a little embarrassed. Ma sembra che Riccardo abbia fatto bene a cogliere l'occasione, no? Nice subjunctive there, Francesca. I like that. It seems that Riccardo has done the right thing to grab the opportunity, to seize the occasion. Sì. Un'altra scenetta romantica, no? Sì, di quelle che mi piacciono proprio. E Maria e Riccardo ballano e Maria ha la testa appoggiata sul petto di Riccardo. She's placed her head on Riccardo's chest. E Anna e Maria ovviamente guardano di nascosto quello che succede. So they're looking on from their hiding place, watching what's happening, and that's why Giorgio calls them curiosone. Sì, curioso means nosy in Italian, and curiosone is even more than curioso, so yeah. It's more emphatic. So he tells the two girls to stop staring at their parents and instead look at the sky instead. Sì, guardate piuttosto verso il cielo. But something really important happens. Finalmente sì. Si stanno baciando, they're kissing. And not the reflexive pronoun si. Si stanno baciando. It's a very good example of that, because you wouldn't really want to use a reflexive pronoun in this case about yourself. No. You don't kiss yourself, you kiss each other, so it's a reciprocal pronoun there. Esatto. Si stanno baciando. Finalmente. Finalmente. Probabilmente tutti i nostri ascoltatori aspettavano questo momento dalla prima puntata, dal primo episodio. Esatto. And I think also the narratrice might be quite happy with this outcome, yeah? I think so. Let's have a listen. La magia dei fuochi d'artificio ha avuto l'effetto desiderato e Riccardo e Maria finalmente si lasciano andare in un bacio appassionato, mentre tutti hanno lo sguardo rivolto al cielo. Giorgio trova il coraggio di mettere il suo braccio intorno al collo di Mia, che, emozionata, gli stringe forte forte la mano. Sarà forse l'inizio di qualcosa di nuovo? Oh my goodness, well, the narratrice here, the romantic narratrice, has very much painted a description, a very appropriate description of the whole scene. Sì, e finalmente può dire che Riccardo e Maria si lasciano andare in un bacio appassionato. Literally, they let themselves go. They dissolve into a passionate kiss. Wow. What else? Giorgio mette il suo braccio intorno al collo di Mia. So he puts his arm around, literally, Maria's neck, but that sounds... Yeah, not Maria. Sorry, I'm getting mixed up. That's perhaps for the sequel, La Mia Estate 2. Ho già qualche idea. No, so to be clear, Giorgio is putting his arms around Mia's shoulders rather than neck, because I think it sounds a little more threatening in English when we put our arms around someone's neck. Ah, okay. And what does Mia do? Mia gli stringe forte forte la mano. Wow. She holds his hand really, really tightly. And that's forte forte. Sì, bravissimo. And if you remember, Mark, we mentioned in a previous episode the possibility of repeating an adjective in Italian in a way to intensify it. Exactly. So here we've got an adverb, and we can do the same with the adverb. Yeah, because forte is a function of an adverb here. Exactly. So it means really strongly. And I think it's also interesting, gli stringe forte forte la mano. To him, sì. She pulls, literally, mm-hmm. hard the hand. Sì, wow. Strongly the hand. Uh-huh. So it's the gli is an indirect object pronoun, to meaning him. To him. Okay, so what is the question that the narratrice leaves us with? Sarà forse l'inizio di qualcosa di nuovo? Will this perhaps be the beginning of something new? Beh, lo scopriremo nel prossimo e ultimo episodio. Esatto. Okay, now, of course, there is a premium version of this lesson, which includes a full explanation of every word and phrase in this very long episode. And comes along with the video versions of the episode and also the lesson notes. And you can access all of that at coffeebreakitalian.com. Now, it's the perfect time, perhaps, to move up to the premium version, because, of course, we're coming to the end of the series and you'll get the premium materials for every episode if you head over to coffeebreakitalian.com. And of course, as usual, we want to remind you that we regularly post content on social media to help you improve and practice your Italian. You can find us on Facebook, where 3 times a week we post language and cultural learning tips, giving you the chance to respond and try out what you are learning in each episode. Search for Coffee Break Italian and make sure you like our page. And there is also Twitter, where we post regular links to lessons. Follow at Learn Italian. And you can also join us on Instagram, where we have been sharing stories for language learners and some behind-the-scenes photos of what goes on here at Coffee Break Languages. Make sure you follow at Coffee Break Languages on Instagram to keep up with all our latest news and language learning tips. Now, there's one particular group of people who have been following us and who have been following the whole story of La Mia Estate very carefully. We wanted to say a little hello. Sì, ho capito a chi ti stai riferendo, Mark. Vogliamo salutare oggi in particolare Luca e tutti i dipendenti della Cembre S.P.A. di Brescia, okay, vicino a Milano. Questi amici, diciamo, ascoltano Coffee Break Italian. Non per imparare l'italiano, ovviamente, no. Ma per migliorare il loro inglese. Esatto, allora adesso parlano tutti con un accento scozzese. Esatto. So we'd just like to say a big hello to all of you. Grazie mille. Sì, grazie ragazzi. Now, if you would like a mention on Coffee Break Italian, then perhaps you should keep an eye out on all our social media channels very soon, because we're going to be making some announcements and something in which you can get involved. So don't miss out on that. But for now, we're going to leave it there. Grazie mille e alla prossima, all'ultimo sì, episodio. Sì, all'ultimo episodio. Non perdetelo, mi raccomando. Ciao, ciao. Ciao. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2017 Radiolingua Limited. Recording copyright 2017 Radiolingua Limited. All rights reserved.